Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, siamo tutti qui, siamo pronti con Pietro alla Corte in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e come sempre con i titoli del nostro sommario. Ad ogni ora il suo sport e a ogni sport la sua ora. Note di benessere. E se provassimo con un bel film? Orologio e attività sportiva, che ci azzeccano tra loro, direbbe qualcuno queste due parole? Quello che scopriremo oggi insieme ai nostri ospiti, parlo al plurale perché insieme al dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, nostro ospite fisso del venerdì. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Abbiamo qua in carne e ossa il professor Roberto Manfredini, che è direttore dell'unità operativa di medicina interna all'ospedale del Delta ASL di Ferrara. Benissimo, grazie. Vede che quando la vedo qua non la mando a Firenze. Perfetto, grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora direi due fustini in cambio di uno per farci diventare dei veri fusti, non solo a livello muscolare ma soprattutto a livello atletico, che come sappiamo, come ci spiega spesso il dottor Confalonieri, è un concetto molto più ampio. Oggi cercheremo di capire il momento migliore della giornata per fare attività sportiva. In ogni caso bisogna trovarlo, perché muoversi fa bene, ma vedremo un pochino come organizzarci al meglio. Attenzione però, ogni persona ha la sua ora e ogni sport forse ha il suo momento, relativamente a quello che noi cerchiamo nello sport, quindi indovinare l'ora giusta potrebbe cambiare molto la situazione. La domanda di oggi, ma poi lascerò al dottor Confalonieri naturalmente spazio per fare le sue domande, è: che sport fai, che cosa vuoi dallo sport e in che momento della giornata pratica che attività sportiva? Il nostro numero verde è a vostra disposizione, 824 0024, i messaggi 349 238 6666. Dottor Confalonieri, lei da sempre sostiene che il momento migliore per fare sport sia la mattina, soprattutto per chi deve organizzare una giornata particolarmente ricca di impegni, e quindi portarsi un po' avanti è sicuramente una garanzia, quindi una colazione, poi si va a correre un po', e di solito lei consiglia la corsa. Sì, diciamo che la mia è una scelta legata soprattutto a una sorta di organizzazione della propria vita in modo razionale, cioè in modo tale che l'attività sportiva non ci crei troppi problemi nel planning della giornata, perché poi lo sport, invece di diventare un momento di benessere, rischia di diventare un momento di stress, e soprattutto non viene garantita la continuità dell'attività, che è fondamentale per i risultati. Quindi è un discorso che prescinde un po' dagli aspetti cronobiologici che oggi credo affronterà il professor Manfredini, anche se poi io sono una persona che fa tutto molto meglio al mattino e quindi mi ritrovo un po' anche da questo punto di vista. Professor Manfredini, quindi tutto bene al mattino, abbiamo un allodolone. Sì. Una lodola, scusi, sì. Dottor Confalonieri. Questa mi mancava, fra le tante. Una lodola, sì, perché direi che nel colloquio preliminare, quando ci siamo conosciuti, è emerso che il dottor Confalonieri è una lodola, direi, userei il termine spinta, una super allodola. Spinta, se si può dire. Però l'ha detto che è già un aggettivo che può essere letto in diversi modi. Una super allodola. Una super allodola. Perché, professor Manfredini? Perché come abbiamo detto altre volte in altre puntate, grossolanamente possiamo dividere così il nostro tipo di essere dal punto di vista cronobiologico, il cosiddetto cronotipo, in due grandi famiglie: il gufo o la lodola. Cioè la lodola è la persona come il dottor Confalonieri, che si sveglia molto presto la mattina e soprattutto è molto performante già da subito. Questo adesso voglio dire, questo lo dice lui, no? Dovremmo capire un pochino, delle indagini relative, magari con le persone che lo conoscono bene al mattino, che cosa fa il dottor Confalonieri, che cosa vuol dire per lui essere performante, molto performante? Va benissimo anche sulle attività mentali, fare un calcolo matematico e leggere il giornale alle 6 del mattino, per esempio. Anch'io, la difende? Anch'io alle 6 e mezza sono già nel mio studio a rispondere alle email, a leggere, quindi a fare niente d'altro, niente di più fisico di leggere il giornale e le email, quindi performance di tipo mentale. Però la paghiamo perché effettivamente, a meno che, ecco, immagino anche il dottor Confalonieri, a meno che non ci siano delle serate particolari con qualcosa di particolarmente stimolante, cene con amici o altre cose, si comincia chiaramente ad avere delle defiance molto presto e il sonno viene presto. Certo. Altre persone, al contrario, alla mattina necessitano di alcune ore, di alcune flebo di caffè prima di cominciare a carburare un pochino. In compenso alla sera, alla notte, assolutamente sono fanno del tutto splendidi. A loro agio, e questo sono il cronotipo gufo. Ecco, e noi anche cercheremo di consigliare il momento migliore per gufi e per allodole. Tante volte il professor Manfredini ci ha spiegato che queste sono due figure, due tipi molto definiti, poi molto spesso ci sono delle figure intermedie. Metà gufo, metà allodola, e allora noi adotteremo proprio la cronobiologia, questa distinzione, per suggerirvi il momento migliore per fare attività sportiva. Ma soprattutto, professor Manfredini, vorremmo anche dare consigli, perché la cronobiologia in questo aiuta molto, a chi ha qualche problema di salute, certo. Penso a qualche fattore di rischio, agli ipertesi che giustamente devono fare attività sportiva, quindi l'ora migliore, a chi ha un problema magari il respiratorio, la persona che soffre di asma, faccio per dire, oppure ai diabetici, insomma tutte le persone che hanno un problema di salute in cui è consigliata molta l'attività fisica, ma che naturalmente si possono porre dei dubbi relativi a quanto e quando, e soprattutto ci aiuterà anche il dottor Confalonieri. Quindi domande, dottor Confalonieri, che vogliamo fare oggi? Io mi rivolgerei proprio a chi fa sport per sapere innanzitutto a che ora fate sport, e soprattutto la vostra scelta è legata all'ora in cui siete più predisposti a farlo o è legata esclusivamente alle problematiche organizzative della vostra giornata. Quindi fate sport nel momento migliore o fate sport magari nel momento peggiore perché siete costretti? Perché questo dovrebbe cambiare molto l'approccio all'attività sportiva stessa. Professor Manfredini? Naturalmente il dottor Confalonieri ha centrato pienamente il senso del discorso che vogliamo dare. Un conto, e anche la sua domanda prima era perfetta. Ah bene, grazie. No, perché se no qua bisogna prende dare, sempre no, non bisogna ci siamo messi dare d'accordo, Cesare, ma bisogna dirlo. Uno, il dottor Confalonieri è un medico dello sport, e io dico sempre che il medico dello sport è il medico dei sani. Io faccio il medico generalista, l'internista, e faccio il medico di gente che spesso ha dei problemi, come diceva lei giustamente prima. Allora, posto che se uno vuole fare sport, ed è giusto che lo faccia ogni ora del giorno, va bene, sì, purché sia continuo, è perfetto. Persone che hanno problemi di coronarie, problemi di cuore, malattie respiratorie, la bronchite, l'asma e quant'altro, le ore del mattino non sono consigliate, perché al mattino per via, per esempio, non so, o dell'inquinamento, perché deve andare a correre per strada, come succede nelle mie città, i bronchi sono un pochino più chiusi, le coronarie sono più chiuse al mattino, la pressione arteriosa è un po' più alta, insomma meglio non andare a aggiungere un ulteriore fattore stress di rischio, specie stress. Se è stressogeno, a un momento non tanto ideale. Allora, io vi voglio far sentire una lettera che, quando uno dice cade a fagiolo, perché noi avevamo già deciso di occuparci di cronobiologia di sport, approfittando della venuta a Milano del professor Manfredini, che sennò dobbiamo sempre catturare al telefono, ed è arrivata questa lettera, manco farla apposta, sentiamo. Io di solito gioco a calcio, non calcetto, il sabato mattina intorno alle 11. Solo che il mio stile di vita, dovuto al lavoro, negli altri 6 giorni mi porta a svegliarmi proprio a quell'ora, se non più tardi. Ovvio che il sabato io sia sempre in difficoltà a rimettermi in moto svegliandomi alle 8 o alle 9 per poi andare a giocare. Premesso che, anche se provo ad andare a letto presto, non riesco a dormire perché ormai il mio fisico è tarato per addormentarsi alle 2-3 di notte e non posso giocare di sera come vorrei. La domanda è: c'è qualche accorgimento, medico, comportamentale o altro, da prendere per ovviare il problema? Luca. Allora, professor Manfredini, dottor Confalonieri, dato che siete all'odole, al mattino funzionate meglio, iniziate a pensare al suggerimento da dare al nostro Luca. Intanto 824 0024 se volete intervenire e scoprire l'ora migliore per voi per fare sport, 349 238 6666. Una mela al giorno. E torna il nostro spazio dedicato alla musicoterapia. In linea con noi abbiamo la dottoressa Erika Sibillo, medica esperta in musicoterapia. Buongiorno e bentornata, dottoressa. Buongiorno a tutti voi. Dottoressa Sibillo, partiamo dal quesito di un nostro ascoltatore che ci chiede un consiglio per suo figlio Mancino, che vorrebbe suonare la chitarra. Sarà difficile per lui, in altri termini, dottoressa Sibillo, ma stia attenta come parla, perché io sono mancina. I mancini sono favoriti, oppure le note, la musica, gli strumenti musicali vanno bene anche per loro, magari sorprendentemente meglio per loro? Beh, direi che ha già anticipato la mia risposta. La risposta è sicuramente bene, bene, che questo bambino, innanzitutto per il nostro radioascoltatore, voglia iniziare a studiare la chitarra. Non c'è nessun problema se è mancino, qual è la difficoltà? Nessuna, perché la chitarra si adatterà al nostro piccolo musicista in erba, semplicemente cambiando la disposizione delle corde. E l'altra, e qui coinvolgo anche lei, signora Nicoletta, sperando che anche lei suoni uno strumento. Io suonavo la chitarra, ma non ho mai girato le corde, l'ho sempre suonata normalmente, come tutti gli altri. Ecco, ma questa volta invece possiamo dare adito a chi è proprio mancino e quindi troverebbe una difficoltà estrema nel tenere la chitarra con le corde come la usano i destrimani, per dimostrare e dimostrerete la vostra innata creatività. Eh sì, perché pensiamo per esempio a musicisti come, non so, Jimi Hendrix, Paul McCartney. Vedi, tra l'altro Paul McCartney è nato il mio stesso giorno, pensi, ecco, lei, fantastico. Mancino quindi... e lo stesso mio giorno. Bene, non ci siamo mai incontrati. Sarà la sua prossima professione. Senta, dottoressa Sibillo, però io questa, ma intanto il dottor Confalonieri e il professor Manfredini possono, so che il professor Manfredini ha un nipote mancino. Una nipote mancina. Io penso che per me come mancina, vivere in un mondo tutto organizzato per i destrimani, insomma, sia una vera e propria palestra. Insomma, dobbiamo attrezzarci in qualche modo. Ma sì, in realtà attrezzarvi, perché per esempio nell'ambito musicale è vero che gli strumenti musicali sono stati tutti creati per i destrimani, cioè per chi utilizza principalmente la mano destra, ma il fatto che i mancini abbiano più intuito e più creatività è dovuto, e questo l'hanno dimostrato le ricerche provenienti da Oxford piuttosto che provenienti dagli Stati Uniti, hanno dimostrato proprio che chi è mancino è favorito nella coordinazione proprio del movimento delle due mani. Del resto, per suonare una chitarra, un pianoforte, uno strumento a fiato, dobbiamo utilizzare due mani, e quindi chi è mancino, l'attività dei due emisferi cerebrali è decisamente più sviluppata. Non solo, ma se aggiungiamo che i mancini devono appunto adattarsi a suonare uno strumento pensato per chi usa la mano destra, questo significa che i loro neuroni cerebrali sono costretti a lavorare di più, quindi devono raggiungere uno sviluppo maggiore. Insomma fortunato chi vive accanto ad un mancino. Dottor Confalonieri, conosce qualche mancino? Lei il mancino non lo è, lo so. Mia figlia per ora è mancina, però ha solo 3 anni. Vedremo come evolverà. Dottoressa Sibillo, grazie per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie anche a tutti voi e sempre buona musica. Grazie. Pronto soccorso. Vi siete scatenati con tantissimi messaggi, adesso mi metto gli occhiali, li leggerò ad uno, intanto 824 0024 è il nostro numero verde. Noi ci eravamo però lasciati con un quesito di Luca, professor Manfredini, si sveglia tardi, Luca solitamente. Si è fatto la diagnosi da solo, sì. Nella sua domanda si è data anche la risposta, ha detto il mio fisico ormai è tarato in questo modo, la traduzione cronobiologica così in politichese sarebbe si è sincronizzato i propri ritmi ormai sul suo andamento della vita lavorativa, sì. E se anche va a letto magari la sera prima della partita, immagino, per provare insomma a dormire un po' di più, non serve a nulla perché ormai si è organizzato, certo, la sua vita per le 3 di notte, se anche una sera prova andare a mezzogiorno, eccetera. E purtroppo non gli spostano l'ora della partita. E no. Quindi credo che i casi sono abbastanza, non c'è molto da fare, o accetta di giocare da scarso, oppure si compra la squadra, sì, e fa giocare la squadra all'ora che vuole lui, oppure va a giocare con un fuso orario favorevole, va a giocare negli Stati Uniti e quando arriva là è pomeriggio, però per lui è sera e quindi avrebbe un grande risultato. Dottor Confalonieri? Sì, diciamo che questo è un problema relativo per Luca, perché comunque gioca a livello amatoriale, ma è spesso un problema per gli atleti anche di medio-alto livello, i quali sono abituati a gareggiare in certi orari, qualche volta si trovano in una competizione importante in un orario rispetto al quale non sono predisposti dal punto di vista biologico o non sono adattati dal punto di vista delle abitudini di vita, degli allenamenti e delle competizioni. È uno dei grandi temi, e comunque da questo punto di vista direi che il tentativo di variare l'ora dell'addormentamento piuttosto che la tipologia dei pasti è quasi sempre un tentativo che non comporta risultati particolarmente positivi. Bisogna un po' accettare, come diceva il professor Manfredini, in quell'occasione un rendimento relativamente minore, magari senza farsi condizionare dall'aspetto mentale, che poi spesso ci condiziona molto. Nel momento in cui pensiamo di rendere meno, spesso rendiamo ancora meno. Ecco. Ciro da Napoli, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Ascolti, io sono un ultramaratoneta, cioè faccio gare che vanno al di là dei 42 km per gara, diciamo così. Mi alleno circa, in preparazione di gare, circa 170-180 km a settimana. Corro praticamente tutti i giorni e ho avuto la fortuna di scegliere un lavoro a turni, quindi io mi alleno a tutte le ore del giorno, a volte anche di notte, in preparazione di gare lunghissime che prevedono lo svolgimento della gara anche di notte, quindi io non ho nessun tipo di problema ad allenarmi anche di notte. Ecco, volevo appunto dire, è tutta una questione secondo me di allenamento e di abitudine alle cose, e tra parentesi sono mancino. Bravo Ciro, siamo vede che associamoci. Professor Manfredini, Ciro è già una persona magnifica perché potrebbe già suonare anche con grande successo. Io devo successo. Innanzitutto fare un peana per i mancini, perché mi trovo alla sinistra della signora Carboni, che quindi di mal rovescio arriva benissimo, quindi i mancini sono perfetti. Ciro si è dato la risposta, ha detto: ho la fortuna di avere un'attività lavorativa turnistica, quindi riesce ad allenarsi in tutte le fasce orarie, perché le adatta al proprio lavoro e le adatta al momento in cui deve andare a gareggiare. Quindi è la persona non fissa nei propri ritmi, pochi lo sono perché molti di noi sarebbero in difficoltà di fronte a una cosa del genere, riesce ad adattare la sua attività e riesce anche ad avere dei risultati, quindi certo. Bene, ma è forse un'eccezione. Dottor Confalonieri. Attenzione, ecco, io a Ciro in questo caso dico attenzione, nel senso che indubbiamente è un soggetto che è riuscito a trovare un buon adattamento, però è quello che noi vediamo come un soggetto a rischio dal punto di vista del sovraccarico e quindi di un potenziale sovraffaticamento, se non addirittura di un sovrallenamento. Nel senso che al suo organismo già richiede la capacità di adattarsi ai turni, che comunque possono essere comodi in termini di allenamento, ma indubbiamente sovraccaricano il nostro equilibrio neuroendocrino perché non ci consentono un'organizzazione costante della giornata. In secondo luogo, aggiunge a questo il sovraccarico di allenamenti molto impegnativi, e quindi deve sempre misurare con molta attenzione il carico, e il consiglio che posso dargli è: il giorno che non se la sente davvero di fare l'allenamento particolarmente lungo, oppure che sente che dovrebbe farlo a ritmi un pochettino inferiori, ascolti il suo corpo, perché suoni il suo, la chitarra, perché il suo è un equilibrio straordinario per come l'ha raggiunto, ma assolutamente a rischio. Ho 43 anni e faccio da 5 anni un'ora di nuoto durante la pausa pranzo. Sto trattando bene il mio fisico, ci scrive Gianni da Treviso. Un messaggio a cui può rispondere il dottor Confalonieri anche, ma che mi permette di chiedere poi al professor Manfredini se ci sono delle attività più adatte per il mattino e delle attività più adatte al pomeriggio. Queste poi si incroceranno con il cronotipio e ciascuno di noi potrebbe in qualche modo farsi un'autodiagnosi. Dottor Confalonieri, la pausa di pranzo dedicata al nuoto. Poi non ne parlerei dal punto di vista del cronotipo, ne parlerei dal punto di vista nutrizionale, certo, che è una problematica importante. Attenzione, il grosso problema per chi fa sport a pranzo non è tanto non digerire quello che ha mangiato, ma non mangiare a sufficienza prima. Sì. Cioè, il vero problema del fare attività a mezzogiorno è farla in ipoglicemia relativa, per cui l'attività, invece che creare beneficio, creare benessere, rischia di creare danno. Per cui il mio consiglio per queste persone, sono sempre di più, è comunque nell'arco della mattinata e anche in prossimità dell'attività fisica mangiare, magari mangiare dei carboidrati complessi ad assimilazione lenta, ma non particolarmente pesanti, quindi digeribili, perché il problema fondamentale è garantirsi una glicemia costante durante l'attività. Non fate l'errore di fare l'attività digiuni. Professor Manfredini, non da sportivologo quindi, ma da cronobiologo, certo, ricordando che noi, in grosso modo, l'organismo è una macchina che produce, che consuma attività, e quindi più le cellule, più gli enzimi producono, più producono calore. Possiamo vedere da quando abbiamo la temperatura corporea dell'organismo più elevata, che è il pomeriggio, che la macchina è potenzialmente più attiva dal punto di vista metabolico in questo momento. Per cui una attività che richieda un impegno muscolare importante, sì, è sicuramente favorita dal punto di vista generale, cronobiologico nelle ore pomeridiano-serali. Un'attività che richieda un'attenzione, una precisione, un'accuratezza, la mira, per esempio, sicuramente le ore del mattino. Quindi ecco che già abbiamo fatto una divisione fra sport diversi, poi giustamente all'inizio ha detto il dottor Confalonieri, e ne parleremo magari per l'allenamento, certo. Questa è la parte cronobiologica, la motivazione poi è la propria preferenza, è un altro importantissimo dato. Abbiamo Giacinto da Bari che voglio salutare e portare con me ai mercati. Giacinto, buongiorno. Buongiorno, perché ai mercati? Perché io tra poco ho i mercati, se lei viene con me poi ritorniamo insieme, che dice? Ah beh, va bene. Mercati e meteo. Va benissimo, va bene. Sono onorato. Giacinto, mi faccia da cavaliere allora. Giacinto. Buongiorno. Eccoci. Allora. Dopo le notizie dei mercati è meglio pensare alla salute. Infatti io sono molto contenta di avere dei mercati alle 11:30. Volevo chiedere ai suoi illustri ospiti, io ho 64 anni, sono in pensione. Sì. E da quando sono in pensione faccio una vita molto disordinata, siccome ho conquistato una discreta pancia, vado in piscina quasi tutti i giorni, ma per un motivo organizzativo ci vado alle 13, dalle 13 più o meno alle 15 e pranzo subito dopo. Sì. Mi può far male, che precauzione devo mi usare, piace, non so, Giacinto, per non andare in sovraffaticamento. Sì, mi piace Giacinto perché ha detto ho guadagnato una discreta pancia, quindi la pensione gli ha fatto bene, se la sta godendo Giacinto. Ah sì sì, oh, ho fatto una vita un po' movimentata. Magnifico, allora dottor Confalonieri. Ma io consiglierei a Giacinto di non pranzare dopo, ma di fare 3 micropasti se possibile quando va in piscina. Quindi una colazione prevalentemente di proteine, è anche piacevole, un uovo, un po' di prosciutto e formaggio o al limite yogurt e cereali che c'è un'elevata componente in proteine. A metà mattina una ricarica di carboidrati, una bella fetta di crostata, un bel panino col miele con la marmellata, piuttosto che le fette biscottate col miele con la marmellata, eventualmente anche una brioche un po' secca e poi va a farsi la sua nuotata. Un po' secca nel senso non senza marmellata, con la crema, non quella del giorno prima. La marmellata prima. Va bene. E dopo il pasto, dopo il nuoto invece fare un pasto ridotto, quindi un'insalata, un po' di verdura, oppure con tutto quello che ha fatto, esatto, mangiare a Giacinto alla mattina, esatto, secondo e me. E poi la sera si fa il suo più pasto completo invece a quel punto. La brioche glielo offro io a Giacinto perché ci ha chiamato illustri. Vero. Giacinto, grazie per essere stato con noi. Sì, però tenga da conto la sua pancia. Grazie, grazie a lei e ai suoi ospiti. Professor Manfredini, se Giacinto volesse però avere un grandissimo sprint e quindi fare tempo, dovrebbe spostare l'ora dell'allenamento del nuoto, se dovesse proprio gareggiare. Se dovessimo guardare alla performance e al, sì, cronometro, allora bisogna assolutamente parlare del momento in cui la macchina è al massimo della sua attività. Quando la temperatura corporea è al suo picco, noi magari ci misuriamo 37, un 37 e mezzo al pomeriggio, l'interna è 38, 38 e mezzo, per ogni grado oltre il 37 e mezzo, 38, abbiamo per esempio oltre 2 metri al secondo di velocità nervosa di conduzione, per cui per esempio rispondere allo sprint per chi deve partire, sì, col nuoto i 100 metri è molto avvantaggiato, e poi anche la forza esplosiva è molto avvantaggiata. Chi deve fare il record lo fa in queste ore. E io in linea con noi ho un'atleta esplosiva, plurimedagliata, mondiale ed olimpica nella canoa, Josefa Idem. Ciao! Ciao, buongiorno. All'odola o gufo? Ma più all'odola, un po' per contingenze, perché i bimbi per portarli a scuola anche noi bisogna che ci acciamo presto, e poi diciamo così, mi piace spicciare tutto il gran lavoro nella prima parte della giornata, anche se devo ammettere che per quanto riguarda il rendimento funziono molto meglio nell'ora del pomeriggio. Perché questa anche la macchina, Josefa, professor Manfredini, come tutti noi comuni mortali, poi lei con dei risultati assolutamente diversi rende di più al pomeriggio. Sì, anche macchina, se sì, per esempio noi facciamo le gare sempre di mattina. Ecco, perché fanno le gare la mattina? Bah, chi lo sa, le mie gare più importanti ci sono sempre, se mi va di lusso, alle 10, ma anche alle 9:30, quindi noi teniamo conto del fatto che rendo meglio di pomeriggio, e per averle sentite le giuste prestazioni, le facciamo tante volte anche di pomeriggio, però poi comunque tante volte le alleniamo anche la mattina proprio per imparare cosa bisogna fare per svegliarsi il meglio possibile per quelle ore lì. E certo, dottor Confalonieri? Sì, questo è il problema di tantissimi atleti d'alto livello. Diciamo che canoa e canottaggio poi spesso sono proprio le finali al mattino, mentre in altri sport ci sono batterie al mattino e finali al pomeriggio. Bisogna conciliare un rendimento elevato sia al mattino che al pomeriggio. E direi che da questo punto di vista l'allenamento e l'abitudine mentale a rendere al massimo anche in un orario che non è quello in cui biologicamente saremmo più predisposti compensa in gran parte il diminuito rendimento proprio legato agli aspetti più propriamente biologici. Vorrei sfruttare anche un tuo consiglio da mamma, Josefa. Hai parlato dei tuoi bambini, bisogna alzarli presto al mattino e questo vuol dire che anche tu, no, diventi subito scattante, ma il pomeriggio che attività sportiva fanno i tuoi bambini e come rendono al pomeriggio? Sono affaticati? Volevo approfittare della tua risposta per dare un'indicazione ad una mamma che ci scrive: mio figlio è iscritto ad un corso di nuoto ma dopo il tempo pieno a scuola nelle elementari è molto stanco e non sa se lo tengo a casa o gli impongo di scendere in piscina. Josefa, tu come mamma e come atleta cosa suggeriresti? Ma dipende sempre anche un po' anche dai vari periodi di crescita dei bambini. Adesso mio figlio maggiore ha 14 anni, sta crescendo tantissimo, lui si allena il pomeriggio e quando torna a casa dice sempre che si sente come avere la febbre per quanto è affaticato, ma ultimamente è anche legato al fatto che sta crescendo moltissimo, tanto per dire è cresciuto 20 centimetri in un anno, quindi è legato alla fase di crescita. E poi è vero, il tempo pieno per i bambini è molto molto impegnativo, perché tante volte sono chiamati a stare dentro e sono stanchi dal fatto di essere stati proprio chiusi dentro, di non essersi mossi, e allora subentra anche una grande stanchezza mentale. Tante volte, adesso proprio per questo ho scelto di non far fare il tempo pieno a mio figlio piccolo che sta facendo la prima elementare. Per fortuna io posso fare così, comprendo chi non può fare non altrimenti. Può fare, certo. Tante volte c'è costringere a dire no, si va, cioè fino a quel punto non arrivo, però cerco di convincere per superare questa pigrizia mentale tante volte, perché proprio si è un po' arrugginiti. Perché poi facendo attività fisica in qualche modo si sciolgono queste tensioni. Ecco, professor Manfredini, lei che dice? No, il fatto che il bambino gli pare quasi di avere la febbre è un indicatore, sta alzando la temperatura, quindi è un indicatore dell'attività comunque muscolare, stressogena, eccetera. Devo dire che i bambini di adesso sono quasi senza ritmi, nel senso che fanno talmente tante attività, sono completamente diverse da, non so, dai nostri tempi, ma anche un'altra generazione. La mia nipotina, che ha 6 anni, tra la scuola a tempo pieno, la ginnastica ritmica, la chitarra e questo e quest'altro, allo zio gli devi chiedere un appuntamento per vederla alla sera qualche volta. Professor Manfredini, allora io saluto Josefa e la ringrazio per essere stato con noi. Grazie Josefa. Non c'è di che, vi saluto. Un bacio. Buon proseguimento, buona giornata. Grazie. Ciao. E noi dovremo andare a Pistoia. Buongiorno Silvano. Sì, buongiorno. Buongiorno, come si sta? Finalmente vi ho preso, vi faccio i miei complimenti. Ecco, siamo bene, ci ha acchiappato e noi siamo contenti. Le volevo chiedere in particolare al professor Manfredini, sì. Io ho 67 anni e sono iperteso, diciamo che piuttosto ho una minima che si è stabilizzata sul 90 e la massima è 130, perché tanto la minima non si abbassa meno di così. Sì. Dunque io sono in pensione, però faccio un po' di attività fisica, in particolare la mattina a digiuno alle 7 mi alzo e a digiuno vado a fare una camminata piuttosto spedita. Sì, ecco, non so se mi fa bene o sarebbe meglio farlo la sera, questa attività. Però lei è più comodo al mattino, Silvano, mi sembra, no? Come dici? Lei è più comodo fare attività. Sì, no, al mattino, diciamo, uno si alza al mattino e inizia. e si mette in moto, professor Manfredini. Sempre permettendo, naturalmente. Certo, qua nevica. No, sì, nevica. Professor Manfredini, guardi, al mattino iperteso. Se si tratta solamente di un'ipertensione 130 controllata 130-90 e se non altri fattori di rischio, guardi, le dico che è ininfluente. Se mi dovesse dire che è un po' sovrappeso, il colesterolo un po' mosso, magari, non lo so, spero di no, il fumo, eccetera, le direi allora vado a fare alle 7 di sera piuttosto. Marco da Novara, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo intervenire, ho sentito che si parlava circa mezz'ora fa degli orari, sì, quando si fa allenamento fisico, sì. Però ecco, devo dire che secondo me è poco credibile poter fare sport al mattino. Io parlo da persona matura che ha più di 40 anni, ne ha 42, ma a parte qualche sport individuale, per esempio la corsa, che considero tra l'altro anche abbastanza noiosa, difficilmente si riesce a fare sport al mattino. Lo sport che piace a lei, Marco? Il suo, cioè... certo. Ah, ecco, perché che uno faccia possa fare. No, lei dice: credo che sia poco. Penso che sia poco credibile poter fare attività fisica la mattina. Ci sono persone che corrono, a lei non piace correre, che vanno in bici, che hanno una piccola due attrezzi a casa e fanno un po' di ciclette. Quindi. Non lo so, ma lei alla fine poi che sport ha scelto e quando lo pratica? No, io da 10 anni faccio equitazione e purtroppo alla sera, perché tutta la nostra vita anche regolata con lo sport si deve confrontare con gli altri, quindi gli spostamenti, certo, il lavoro a Milano. Per cui alla sera mi ritrovo a fare lezione dalle 8 alle 9. Lo credo, perché con un cavallino mi piacerebbe vederla a cavallo per un parco milanese, però forse il cavallo non sarebbe tanto contento. Marco, eccoci. Quindi lei oggi verso le 7:30, 8, sellerà il suo cavallo e via. No, il venerdì no, perché ecco, è riposo settimanale, è sindacale del cavallo, perché lo monto tutti i giorni, per cui il venerdì ho deciso di non di tenerlo. Ah, un giorno giustamente fa festa anche lui. Bene, e la sua domanda? No, sì, no, la mia domanda, allora io volevo fare un'ultima domanda e volevo sapere se la ginnastica, attività fisica fa bene a una depressione lieve e soggettiva personale mia. Non corretta attualmente da farmaci, ecco. Quindi ecco, ritornando, scusi, un'ultima cosa, al mattino è vero quello che dicevate voi, ma è vero che ognuno tende a fare il proprio sport, quindi certo. Si adegua al mattino a correre, magari perché non gli piace, ma perché deve almeno fare sport un'ora al giorno. È logico. Insomma, si deve fare di necessità virtù e poi uno cerca di fare anche le cose che gli costano anche un po' meno. Allora, antidepressivi, nel senso sbagliato, l'attività fisica può essere un antidepressivo naturale, l'abbiamo detto tante volte, le ricerche lo dimostrano, sicuramente si scatena qualche cosa, ma professor Manfredini, le endorfine che si attivano, abbiamo sottolineato tante volte questa azione benefica anche sull'umore. Io credo che anche senza voler essere troppo scientifici sulla biochimica molecolare del cervello, l'attività fisica secondo me fa bene sempre. Quindi poi Marco va a cavallo e io penso che sia anche il rapporto con l'animale che possa dare comunque un aiuto in più. Questa è una notazione molto importante. L'altra notazione, però, attenzione con le parole. Quando parliamo proprio di patologia depressiva, di depressione, non possiamo illuderci di poterla gestire da con soli. L'attività sportiva. Su una situazione che magari nell'accezione comune definiamo come depressione, ma non ha gli elementi clinici della patologia stessa, lo sport sicuramente, come diceva il professor Manfredini, o l'attività fisica può far bene. Però non dobbiamo neanche creare false illusioni. No, infatti penso che il nostro ascoltatore intendesse dire un tono dell'umore deflesso, più che una patologia depressiva. Allora, andiamo a Davide da Torino, poi ho un messaggio per lei, dottor Confalonieri, che le tiro un po' l'orecchio, ha bisogno di una precisazione. Davide, buongiorno a lei. Sì, buongiorno. Davide, dove va, cosa fa, che ora, ci racconti di lei. Sì, telefono per mio figlio, ha 14 anni, sì? Fa prima superiore e da un po' di anni fa nuoto a livello agonistico. Bravo. Quest'anno, passando il superiore, ha cambiato anche l'orario di scuola, quindi esce alle 14 e alle 14:30 all'allenamento. volevamo sapere cosa, se, dunque lui fa una colazione abbondante al mattino, latte con dei cereali, e poi a metà gli diamo, si porta dietro nello zaino un paio di panini con dell'affettato in genere. Sì. Volevamo sapere qualche consiglio su cosa dargli perché possa allenarsi. Per arrivare pronto all'allenamento, ben esatto. Carburato. Dottor Confalonieri? Sì. Allora, quello che fa va bene nel momento in cui l'atleta rende in allenamento e non ha problemi, può essere sufficiente questo tipo di approccio. Per atleti che invece hanno allenamenti molto intensi e fanno fatica, il mio consiglio è quello di mangiare un pochettino di pasta, un pochettino di riso, appena usciti da scuola, hanno l'abitudine a stare in acqua, l'assimilazione di questi alimenti è rapida, la temperatura dell'acqua è calda, non ci sono problemi per loro di tipo digestivo e hanno energia a disposizione per l'allenamento. Ecco, vorrei chiarire che quando si parla di una ricarica in termini di cibo prima dell'esercizio, si parla di un po' di carboidrati molto facilmente assimilabili che non creano impegno a livello gastrico e quindi non pregiudicano l'andamento dell'allenamento. E questo tipo di accorgimento è importante proprio per rendere in allenamento, non si parla di fare un pasto completo e dopo mezz'ora mettersi a fare attività. Allora lei ha risposto all'ascoltatore che ci scrive: so che lo dicono tutti gli esperti che bisogna fare attività fisica almeno 3 ore dopo l'ultimo pasto, il dottore dice il contrario, non si sa che cosa scegliere. Saluti Amedeo. Allora Amedeo, dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra non avere troppo sangue impegnato a livello dell'apparato digerente per digerire appunto ed avere una sufficiente disponibilità di zuccheri a livello muscolare e una sufficiente quantità di zuccheri a livello del sangue. Questo equilibrio non è sempre facile da trovare, ma dobbiamo tenere presenti entrambe le problematiche, se no il rischio è quello di digerire benissimo ma di andare in ipoglicemia durante la lezione di aerobico di acqua fitness. Professor Manfredini, non so se lei sarà capace di darci la risposta che noi vorremmo, e immagino che lei le sappia qual è, ma vorrei sapere se andare in palestra nell'ora giusta frutta di più anche a livello di dispendio calorico. Ci scrive Emma da Bologna. No, direi che no. Vedi, perché sennò ci concentravamo tutti lì. Dovevo dire sì perché arriva man rovescio nel mancino. Però a dire il vero non c'è un momento in cui fare un'attività fisica fa consumare di più di meno. C'è il contrario, ribaltiamo il problema. Sì. Esiste invece un momento in cui caricare le calorie ce le fa tenere tutte, perché se la macchina uomo durante la notte praticamente si iberna e quindi non è fatta per l'attività fisica ma accumula, un po' come l'animale nella caverna, mangiare alla sera, e lo dico contro il mio stesso comportamento, vuol dire accumularlo tutto e si vede. Non fatelo, non fatelo. Dire, no, devo dire che il professor Manfredini, approfitto anche di Marta Cagnola che ci ha raggiunto, adesso facciamo un po', no? diamo i voti. Non mi sembra il professor Manfredini che debba trattenersi. A me non sembra. No, io direi che gli diamo promosso, insomma. Radio 24, devo offrire molti caffè oggi. Sì, promuoviamo anche il dottor Canfolanieri, che è piacevolmente morbido. Io non sono mai stata fan degli uomini troppo secchi, mi piace un po' di... poco, però... Dottor Confalonieri, vede... Vede che ritorna questo concetto delle... Altro che attività fisica per tirare sull'umore, venite qui, chiamateci. Esatto. Siete terapeutiche, vero? Siete terapeutiche, assolutamente. E anche Marta sarà terapeutica oggi, come l'è stata per tutta questa settimana, in un modo che è piaciuto molto agli ascoltatori e che quindi Marta ci regalerà ancora presto, così ti ho incastrato. Certo. E che è quello di prendere spunto da un film con una battuta, eccetera, e farla diventare un po' il pensiero della giornata. Parliamo prima del film o andiamo al pezzetto di film? Ma io ascolterei l'estate. Andiamo. Stop! Maledizione, stop! Signor Bakshi. Sì, signore. Lei si è reso conto che il nostro film si svolge nel 1878? Ah, sì, certo, signore. So benissimo che si svolge nel 1878. Signor Bakshi, saprà benissimo anche che nel 1878 non si portavano i cronometri da sub. Sì, certo che io so. Non erano stati nemmeno inventati. Che ora è? Sono... Mio Dio. Bene, pausa per il pranzo. Tu sai che hai scelto il mio film preferito. Però qui a questo tavolo l'hanno indovinato tutti. Ma cos'era lui? Io quando sono un po' giù, essendo io abbastanza pigra, devo dire che me lo vedo anche così, no? Dove attacco perché e mi... Qui mi sta fa... per fare quel danno inenarrabile sul set. Sì, è certo, perché lui, chi non l'avesse visto, e dobbiamo darlo come compito a casa nel weekend, certo, non sa che il protagonista è Rundi Bakshi, questo attore indiano che fa la comparsa a Hollywood in un film in costume. Ovviamente quando gli chiedono che ora è, lui la guarda tranquillamente sull'orologio, non doveva portare questo orologio. Da lì si scatena una serie di coincidenze assurde. Il film è un capolavoro della comicità, Hollywood Party, diretto da Blake Edwards, interpretato da Peter Sellers, dal 68 ci fa ridere. Io non ero nata, ma dal 1968 noi ci fa ridere. Io da poco. Che non è carina adesso. No, ecco, no vabbè, dai, però è un po' una caduta di stile. Ma noi eravamo piccolissimi. Non mancava moltissimo, ma non importa. Perché quando mi hai chiesto di pensare ad alcuni film per stare bene, io subito ho pensato di scegliere durante tutta la settimana delle commedie, insomma, perché alla fine credo nel potere taumaturgico del sorriso, anzi della risata proprio. E secondo me questo è uno dei film che fanno più ridere in assoluto. Sì. La risata proprio semplice. Quella sì, quella che ti viene su dalla pancia. Soprattutto per chi come noi magari attento alle apparenze, a non fare brutta figura, ad essere sempre un po' piacevole in società, invece qui è proprio liberatorio, tutto il peggio. Meglio. Allora, intanto io vi dico che a proposito di sorriso, rideremo anche lunedì e ci occuperemo infatti di sorriso. Dal punto di vista di lubrificante dei rapporti personali, bisognerebbe sorridere di più, ma anche sorriso inteso come salute e bellezza della nostra bocca. E quindi io vi aspetto sorridenti lunedì. Intanto saluto il professor Manfredini. Sono davvero felice che lei sia venuta a trovarci, vero Marta? Ma caspita, adesso mi era ascolto la trasmissione, perché io stavo lavorando per il giornale radio, ma adesso mi riascolto la replica. Spero che lo siano personale. Anche gli spalaneve del comune di Milano. Dottor Confalonieri, grazie, noi ci vediamo invece venerdì. Senz'altro, a risentirci con tutti. Grazie a voi per averci ascoltato. A Pietro la Corte l'ho già ringraziata, Laura Vanossi. Vi ricordo che domani c'è Questa casa non è un albergo. Se fate un salto su Radio 24 a mezzogiorno, noi siamo lì ad aspettarvi. Fate, insomma, prendete un appuntamento. Grazie, buona giornata.